Il 9 agosto. Luglio. Ecco che mi capitò una cosa strana. Me ne stavo in giardino a raccogliere fragole, improvvisamente si scatenò un terribile vento sull'aiuola. Alzai gli occhi, nessun albero si muoveva, solo le foglie delle fragole erano scosse dal vento. La cosa millilitri sconvolse ed entrai in casa. Non c'era il minimo soffio di vento, tutto quieto. Allora uscii di nuovo, tutto quieto. Appena ebbi ripreso a raccogliere lo stesso uragano. Allora domando, c'è qui una povera anima? Ed ecco vedo quattro figure che fanno un cerchio intorno a me e mi gridano in faccia, 9 agosto. E tutto rimase come prima. 9 agosto, che strano. È ormai la quinta volta che mi viene ricordata questa data o che io sogno di essa. Credo di averne già parlato una volta. La prima volta la sentii nell'anno 1898 e mi fece una grande impressione. Credetti davvero di morire. L'ultima volta in dicembre sognai che sulla mia scrivania c'era un grande foglio di carta sul quale era scritto 9 agosto. È davvero strano, però, che non ho paura. Solo che la cosa mi incuriosisce. In genere ora ho più pace di notte. Ho descritto soltanto i fatti nei quali si parlò. Il resto fu bensì molto, ma non insopportabile. Anche a questo ci si può abituare.